Falco. Il Falco. E il Gabbiano. E il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel mondo della musica, forse oggi i rapper sono i personaggi più controversi, quelli più ambigui. Molti di loro hanno un passato burrascoso. Sapete tutti, per esempio, che Jay-Z a 13 anni spacciava per le strade del suo quartiere, e non è l'unico. Nella storia dei rapper, soprattutto quelli americani, troviamo violenza, spaccio, possesso d'armi, addirittura omicidio. Insomma, sono molti i rapper che hanno mischiato musica e crimine, sono arrivati veramente dalla strada. Noi che viviamo, insomma, con dei rapper da salotto che millantano il loro essere teppisti, invece vengono magari dai quartieri bene di Milano, ecco, qua invece andiamo a sporcarci le mani. E loro se le sono sempre sporcate con testi duri, scabrosi, anche che magari inneggiavano alla violenza, raccontavano le gesta delle gang, parlando di sesso al limite della pornografia e a volte dell'omofobia. Insomma, il ritratto che ne emerge è quello di una cultura cruda. Forse questa è la caratteristica principale del rap, e forse è proprio per questo che il rap americano in qualche modo è stato una prosecuzione del punk, e anche l'aspetto di molti rapper è più vicino a quello di un gangster che a quello di un artista. E oggi vi parlo di uno dei rapper più famosi, più celebrati, ma forse la ragione della sua fama sta anche intanto in una particolare ambiguità, perché da un lato c'è il classico, appunto, gangsta rapper, ma dall'altra parte c'è l'immagine di uno confidenziale, di un simpatico sussurratore di motivi R&B, di un sornione, di un personaggio col quale andresti anche, secondo me, volentieri a cena, senza troppe preoccupazioni, senza temere di essere coinvolti in una sparatoria. Stiamo parlando di Snoop Dogg. Il messaggio è più feroce quando si resta calmi. Un uomo che punta la pistola su un uomo che non è nervoso rende l'uomo con la pistola nervoso. Per questo io mantenevo una voce rassicurante, che non era la solita merda della West Coast. La mia specialità era quella del super gangster fico e rilassato, non così aggressivo. A volte aggredire spaventa i neri e li fa scappare. Il mio stile era caldo e accogliente. E questa dichiarazione rende bene il dualismo del suo personaggio: un super gangster fico e rilassato, speso con l'occhio di chi si è fatto una canna ma buona. Niente a che vedere con altri che hanno un aspetto più truce, sempre con la faccia da prerissa. Bene, Snoop Dogg, che è uno alto quasi 2 metri, che è magrissimo, con una faccia particolare, un po' pigro, svagato, e forse questo che gli ha fatto guadagnare quel soprannome. È uno che ride facilmente, che scherza, che fa battute. Bene, con questa faccia nel 2003 lui si presenta sul red carpet degli MTV Awards con 2 prostitute tenute al guinzaglio, perché in quel momento, al fianco di una brillante carriera come rapper con moglie e 3 figli, Snoop intraprende anche la carriera di magnaccia, e lo fa per davvero. Andiamo per gradi, perché non voglio svelarvi tutto. Torniamo indietro. Cordozar Calvin Brodus Jr. nasce il 20 ottobre del 71 a Long Beach in California. Il padre naturale è un veterano della guerra del Vietnam, però sparisce subito dalla sua vita, e Calvin viene già battezzato come il patrigno Cordozar Calvin Brodus Sr. La madre si chiama Beverly ed è un tipo particolare, un tipo tosto. Mia madre era una a posto. È stata sia madre che padre per me. C'era molta disciplina a casa mia, ma allo stesso tempo ho fatto una vita un po' avventurosa. Sono stato in una gang, ho venduto droga, perché è quello che fanno i giovani senza una guida. Mia madre ha fatto del suo meglio, ma allo stesso tempo sono stato influenzato da quello che mi circondava quando lei non c'era. Sin da piccolo lui canta, suona il piano alla chiesa battista, in prima media comincia già a rappare, a casa lo chiamano Snoopy per la sua passione per Snoopy, per il bracchetto dei Peanuts di Schultz. La madre gli dice che ha gli stessi occhi finto sonnolenti, quelli che lo accompagneranno per tutta la vita. Però anche se la madre cerca di tirarlo su nel migliore dei modi, gli impone il coprifuoco alle 10 quando lui esce per fare il DJ nei party a Long Beach, insomma lui però sente il richiamo irresistibile per la strada e viene trovato in possesso di droga quando è molto giovane e spedito in galera. E così durante il liceo lui diventa membro della gang Rolling 20 Crips, affiliata della famosa gang dei Crips, fondata negli anni 70. Per anni i Crips si scontrano con una gang rivale, i Blood, e insanguinano le strade di Los Angeles. Però stare in una gang sembra, come dire, un passaggio iniziatico inevitabile per tutti i ragazzi neri di città enormi come Los Angeles. Molti dei rapper più famosi hanno fatto parte di queste gang, non solo Snoop, Ice-T, Coolio, tanti altri. Insomma, sembra quasi un binomio inscindibile. È bello essere in una gang, perché educano all'amore, alla famiglia e all'amicizia. Un sacco di gente non capisce gli aspetti positivi di stare in una gang. Ma se non si cerca di capire o di conoscere il motivo per cui è stata creata questa gang, qual è l'origine di questa banda, le norme e i regolamenti che ha, allora è un peccato. Beh, insomma, non sono convintissimo di tutto quello che ha detto lui, però è anche vero che qualche valore può darsi che emerga da questo tipo di aggregazione, però è anche vero che qua si fa avanti e indietro con la galera. Insomma, la strada del nostro protagonista potrebbe essere già una strada segnata, ma per fortuna il destino ha pronto per lui un incontro importante. Il falco e il gabbiano. Quando Snoop Dogg non è in prigione, passa le giornate col cugino a incidere degli esperimenti rap. Il duo si fa chiamare 213, il prefisso di Long Beach. Lui è bravo, quando deve tornare in cella sono i suoi compagni di cella che lo esortano a continuare. Ma quando provavo a fare rap nel carcere della Contea, molti dei detenuti più anziani mi dicevano: ragazzo, hai troppo talento per essere qui, devi restare fuori, non sprecare la tua vita con il crimine. Ogni tanto succede che un ragazzo ascolti gli adulti, anche se sono i criminali di una prigione. Così col passare del tempo Snoop rimane sempre più fuori a rappare che dentro alla galera. Insomma, viene premiato. Una delle registrazioni fatte col cugino finisce nelle mani di Dr. Dre, fondatore degli NWA, uno dei più importanti produttori della scena hip hop. Un giorno il telefono squillò e una voce all'altro capo mi dice: sono Dr. Dre. Non potevo credere alle mie orecchie. Ho detto: sì, ma dai! E lui dice: sì, davvero vuoi fare un disco con me o no? E io: cavolo sì! E così Snoop inizia a collaborare con Dr. Dre, che lo utilizza intanto nei cori di un album molto famoso che si chiama The Chronic, però non solo. Lui scrive la maggior parte dei brani dell'album e quindi in breve tempo i critici, ma anche i fan, iniziano a riconoscere il suo stile. Quindi arriva anche il momento di incidere il primo disco, Doggy Style, e questo è il titolo. Viene proposto da Dr. Dre nel 93, lui ha 22 anni Snoop, e i due brani principali dell'album, Who Am I e Gin & Juice, ottengono un immediato successo perché ha uno stile diverso, leggero, divertito e non ha la cupezza di molti brani hip hop del periodo. Quindi i due brani raggiungono subito i piani alti delle classifiche, però innescano una inevitabile polemica per i testi, perché qui si inneggia al sesso, alla droga, con delle spacconate che prevedono anche violenza sui rivali. Insomma, è un problema annoso, riguarda tutto il genere musicale gangster rap, perché si parla non solo di violenza, spesso viene celebrato il delitto vero e proprio, anche con incursioni verso lo stupro, lo spaccio, le polemiche vanno avanti. dagli anni 80 vanno avanti queste polemiche. Se da una parte in America quasi tutti condannano il genere, dall'altra forse proprio perché il genere è condannato la cosa piace agli artisti e sostengono che sono testi che riflettono la realtà della strada, che quello che è da deplorare sono le amministrazioni americane che non risolvono i problemi. D'altra parte, insomma, si diceva la stessa cosa del punk prima ancora dei testi di Lou Reed, quindi evidentemente qualcuno che sia in grado di fotografare la realtà anche quando non ci piace forse è necessario. Ma tornando a lui, è anche vero che nonostante lui sia nato musicalmente nell'area del gangster, è uno dei pochi che non ha paura di mostrare anche il suo lato soft. Scrive, per dire, persino dei testi dedicati alla madre. La mia musica rende le persone felici, non violente. Cerco di scrivere canzoni che le persone si potranno godere quel tanto che basta per fargli tirare fuori i soldi per comprarla. Provo a scrivere canzoni classiche che durino e che raggiungano ogni tipo di pubblico. I gangsta, i fedeli, i bianchi, i neri, tutti. Io e Dr. Dre stiamo facendo qualcosa di nuovo. È arte. E rimane il fatto, e lo racconta anche in un'intervista a David Letterman, che per anni lui ha del suo lavoro un'idea molto precisa. And how would you describe your body of work prior to this transformation? Gangsta. Doggy Style è un grande successo comunque, così arrivano i soldi e ovviamente con i soldi le complicazioni. Nel 93, alla fine di agosto, la guardia del corpo di Snoop, perché lì per girare bisogna avere le guardie del corpo, la guardia del corpo uccide un membro di una banda rivale che aveva minacciato il rapper di fronte a casa sua. La guardia del corpo sostiene che si sia trattato di legittima difesa, ma i due, Snoop e l'altro, vengono accusati di omicidio. Al termine di una lunga battaglia legale vengono riconosciuti innocenti e rilasciati, ma per Snoop è sempre più evidente che il mondo gangsta non paga. Lui con la musica sta facendo molti soldi e non giova alla sua carriera avere processi in piedi con i giornalisti e i giudici che cercano di capire se è un assassino e i suoi fan più moderati che magari cominciano a chiedersi se sia il caso di adorare uno che fa solo il criminale. Nel mondo del rap si può essere in alto per un secondo e poi finire giù per tutto l'anno dopo. Io sono salito in alto in poco tempo e in altrettanto poco tempo mi vogliono spingere fuori dal gioco. Per questo devo cercare di mantenere il mio nome pulito e il gioco corretto. E in effetti ha ragione lui. Da quel momento lui si tiene fuori dal giro violento, ma c'è un altro aspetto della vita del gangster che lo affascina fin da bambino. Fare il protettore, il magnaccio. Il falco. E il gabbiano. Stiamo parlando di Snoop Dogg al secolo, Calvin Brodus, gangster rapper, ma più di tutto un artista dal fiuto incredibile. Appena nasce una nuova tendenza, un nuovo personaggio col quale sviluppare un'idea, lui è pronto a seguire, a cavalcare l'onda, è molto veloce nel anticipare i gusti del pubblico. Insomma, nel corso degli anni si trasforma da gangster rapper a artista quotato che duetta con nomi famosi. Dopo il suo primo album di successo sforna un nuovo album intitolato The Dog Father, siamo nel 96. A proposito di father, peraltro, lui ha già un figlio che è nato nel 94, lo ha avuto dalla sua ragazza del liceo, Shanti Taylor, con la quale si sposa nel 97, dalla quale ha altri due figli, e sarà la vita familiare a cambiarlo, insieme alla morte violenta di amici come Tupac Shakur, vittime di una cultura che non dà scampo. Insomma, sta di fatto che dopo Dog Father, Snoop si allontana dal gangster rap, dalla Death Row Record, l'etichetta discografica fondata da Dr. Dre, ma che anche lo stesso Dre sta abbandonando in polemica con l'altro fondatore che si chiama Suge Knight e che gestisce gli studi dal carcere. Voglio fare ciò che hanno fatto i grandi. James Brown, Sam Cooke, Curtis Mayfield. Questi ragazzi sapevano come tenere il controllo e possedevano le loro proprie etichette discografiche. Sono diventati padroni di se stessi e hanno creato uno stile musicale tutto loro. Così arrivano a nuove etichette, Snoop registra altri 3 album e poi approda la EMI a un nuovo album di grande successo nel 2002, Pay the Cost to be the Boss, con le due S di Boss marcate dalla linea, cioè due simboli del dollaro. Contiene una bella canzone in collaborazione con Pharrell che si chiama Beautiful. E in questo periodo non cambia solo l'etichetta, ma anche il personaggio. Termina il periodo gangster, ma non termina la fascinazione che lui sente per il mondo malavitoso. Ma a lui più che le pistole piacciono le donne. E così si trasforma, diciamo così, in un magnaccia. Dal 2002 al 2004 fa esattamente questo e per davvero. Quella era la mia vocazione naturale. E una volta che mi sono trovato coinvolto con quella cosa è stato divertente. È stato come mettere a segno un buon colpo. Ci riuscivo sempre. Perché fare il magnaccia non è un lavoro, è uno sport. Avevo una puttana ad ogni uscita della superstrada, dalla 10 alla 101. Quasi quasi erano loro che mi volevano come loro pappa. Certe puttane ne reclutavano altre per me, andavano nei club o in giro e mi portavano altre femmine che diventavano le mie puttane. Questo è essere un vero magnaccia. Beh, in questo devo dire si differenzia molto dalla media di tutti gli altri cantanti. Se possiamo dirlo, insomma, il momento più alto della sua carriera di protettore giunge nel 2003 quando si presenta sul tappeto rosso degli MTV Awards con due sue assistite, due donne, due professioniste del ramo al guinzaglio. Mi esercitavo nell'arte della prostituzione e volevo far vedere alla gente cosa volesse veramente dire fare il protettore. Se sei davvero un magnaccia, dovresti essere in grado di avere due femmine da portare con te al guinzaglio sul tappeto rosso. Due puttane, tutte per te per tutta la notte. E quando l'ho fatto, mi sono sentito un vero magnaccia. E questa è una vocazione che nasce presto. A 10 anni, assieme a un suo amico, vince una gara di travestimento alle elementari vestendosi da magnaccia. Lui prende la sua nuova carriera sul serio, produce e dirige un film pornografico, Snoop Dogg's Doggy Style, mischiando hip hop e materiale a luci rosse. È un grande successo. 2 anni dopo una nuova pellicola, Snoop Dogg Hustlers, diario di un magnaccia, e per l'occasione si firma Snoop Scorsese. Senza nulla togliere alla gravità delle azioni, anche in questa situazione emerge, insomma, il senso scenografico e sornione di Snoop, senso cinematografico che in qualche modo poi si traduce anche nel fatto di essere ed essere tuttora un attore che ha un suo stile ben preciso, sempre appunto con quell'aria, con quell'occhio un po' abbassato di uno che si è appena fatto una canna della roba più buona del mondo e che in qualche modo lo ha caratterizzato. Intanto nel suo ruolo e nel suo periodo da protettore riesce a far passare l'idea di un mondo fatto di uomini vestiti con le pellicce di ermellino, di donne della biancheria sexy, che confina insomma tra l'eccitazione e lo sfruttamento della prostituzione. Sono in molti che amano questa immagine, c'è qualcuno a cui però lui insomma, non può raccontarla, è la moglie, perché ci sono mogli alle quali queste cose non fanno piacere. E così a un certo punto la situazione degenera, la misura è colma anche per Shanti. Nel 2004 la coppia chiede il divorzio. Forse a questo punto lui si accorge che un conto è vivere il sogno proibito dell'infanzia e un conto è mettere in pericolo la stabilità della propria famiglia. Il mio sogno era di essere prima di tutto un rapper. Quello è stato il mio sogno, e di farcela e di avere successo. Lungo il percorso mi sono innamorato di mia moglie, ma per un po' ho continuato a mettere la mia carriera davanti a lei. Pensavo fosse quello il mio sogno, senza capire che la mia famiglia era il mio vero sogno. Così ora ho imparato a mettere le cose nella giusta prospettiva. Mia moglie e i miei figli vengono prima e la mia carriera è al secondo posto. Ed è per questo, penso, che oggi sono così produttivo. Ho imparato la giusta prospettiva. E così Snoop rimette la testa a posto e dopo un periodo di purgatorio che la moglie gli impone, nel 2008 la coppia torna assieme e tuttora sono rimasti assieme, quindi evidentemente, diciamo, la lezione gli è servita. E intanto esce l'album di maggior successo, che è Rhythm and Gangster R.A.G., prodotto con l'aiuto dei Neptune di Farrell. Nell'album anche la famosa Drop It Like It's Hot, che raggiunge la numero uno della classifica statunitense. E dopo altri dischi importanti c'è il grande successo di una collaborazione con Katy Perry per l'album Teenage Dream. Il singolo è California Girls. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. Insomma, dopo le sue complicazioni familiari seguite al suo periodo da magnaccio, lui trova il modo più tranquillo di incanalare le sue energie. Diventa un allenatore certificato di football americano e la sua nuova missione è quella di occuparsi dei ragazzini attraverso lo sport, e si butta anche questa volta a capofitto nell'impresa. Non voglio fare nessun disco, non voglio fare nessun film, non voglio fare un cazzo, solo il football. Fino a quando non ho vinto questo Super Bowl, non mi importa di fare i soldi. I miei manager dicono che è una perdita, perché quando sono in modalità di gioco non vado in giro a fare soldi. Ma quando sono con questi ragazzi non si tratta più del denaro, si tratta di far sì che i loro sogni si avverino. E per amore dei ragazzini e del pallone, per un certo periodo lui rinuncia anche a un'altra sua grande passione, che è la marijuana. Da sempre è stato un acceso, un aperto sostenitore delle qualità della marijuana, e racconta che la prima canna gli venne offerta a casa da uno zio quando era un ragazzino. Ma insomma, queste sono abitudini che non si conciliano con lo sport. Avevo appena ottenuto di poter allenare per davvero una squadra e mi resi conto di arrivare all'allenamento che puzzavo d'erba, con la vista offuscata e troppo rilassato. I genitori mi guardavano come se invece del coach fossi Snoop Dogg il gangster. L'impegno con i ragazzini è anche una conseguenza del suo incontro con Tucci Williams, che era il fondatore dei Crips, che era stato condannato a morte per l'omicidio di 4 persone, ma che una volta in carcere, dopo 6 anni di isolamento, dopo molti episodi di violenza, aveva subito una trasformazione radicale. Aveva studiato, si era informato, si era reso conto dell'impatto sociale negativo che la creazione delle gang aveva sui giovani. Era uno che aveva scritto dei libri contro la violenza, era stato perfino proposto per il premio Nobel per la pace. Molte associazioni cercavano di fargli ricevere la grazia dall'allora governatore della California, che era Schwarzenegger, che però gliel'aveva rifiutata. Pochi giorni prima che la sentenza di morte venisse eseguita, Snoop va a trovare il suo amico condannato a morte in carcere per l'ultimo saluto. Fu un'esperienza molto forte. Ho pianto con tutto il cuore. Che cazzo potevo dirgli? Cercavo di tenerlo su, ma a un certo punto lui è stato forte e io debole. Ho ceduto e gli ho detto: dimmi qualcosa. Cosa devo fare? Perché sono troppo debole in questo momento. E tu chi mi disse di mantenere i ragazzi sulla strada giusta? E io gli ho risposto: adesso so qual è la mia missione. Tucci Williams viene giustiziato nel 2005 mediante iniezione letale fatta male, perché muore dopo 20 minuti di agonia. Da quel momento Snoop si impegna ancora di più nel suo progetto per togliere i ragazzi dalla strada con una sua fondazione. Mi piace portare il mio progetto del football nei quartieri dove c'è molta violenza, per poter dare una chiave, un'alternativa alla gang e alla violenza. E il football è un buon modo per farlo. Forse questo è ciò che più vicino alla religione ci può essere per un tipo come Snoop Dogg, anche se più tardi, nel 2012, annuncia al mondo la sua conversione al rastafarianesimo con un nuovo disco Reincarnated e con un documentario girato in Giamaica. E la conversione alla religione rasta è solo uno degli ultimi esploit ai quali ci ha abituati Snoop Dogg, non certo l'ultimo, a differenza di molti altri rapper della sua generazione, di quella seguente, che non si sono più mossi, non sono più usciti dalla loro parte. Lui ha fatto della fluidità la sua caratteristica, la sua carta vincente. È passato da un personaggio all'altro più di tutti gli altri grandi protagonisti della scena hip hop della West Coast. Ha saputo sopravvivere a dei momenti bui, ai momenti in cui molti dei suoi amici sono rimasti uccisi nelle strade e qualcuno invece, come Tucky Williams, è finito morto per mano dello Stato. Insomma, gli è bastato quello sguardo sornione che alla madre ricordava tanto Snoopy. Ci sono storie di persone che hanno dato dei colpi d'ala, anche a volte colpi d'ala un po' particolari, come quelli che Snoop Dogg è riuscito a dare alla sua vita, però è stato un percorso molto tortuoso che lo ha portato verso la redenzione attraverso dell'ottima musica. E se volete mandare dei commenti, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite nei miei social, Facebook, Twitter, Instagram, a me su quelli del Falco il Gabbiano, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.